baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Che relazione c'è tra il precipitare della crisi finanziaria internazionale, l'andamento della campagna elettorale americana, il trionfo in Austria della destra populista e anti-europea e la crisi dei cristiano-sociali della CSU in Baviera? Apparentemente niente, in realtà è facilmente leggibile un rapporto di causa ed effetto che ha alla base il sentimento della paura. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Io queste domande che avete sentito se le pone Enrico Cisnetto, editorialista sul Messaggero, e domande che vanno oltre la crisi economica e che si pongono il problema più generale della politica e del rapporto con la società. La paura, anzi il panico più assoluto, scrive Cisnetto, di cui sono prede i mercati finanziari e che rischia di travolgere non solo le banche, assicurazioni e fondi che avevano fatto il passo più lungo della gamba, specie sul terreno dei prodotti finanziari legati all'immobiliare, ma anche quelle sane, i cui titoli crollano ugualmente in borsa, e la paura del presente e del futuro, che si sta diffondendo in modo crescente tra i cittadini europei e in particolare in quella piccola e media borghesia che più di ogni altro ceto sociale ha pagato o immagina di dover pagare il prezzo più alto al processo di globalizzazione in atto. Scrive ancora Cisnetto, finora queste due paure si sono parlate in qualche misura, la seconda è anche figlia della prima, ma non si sono sommate null'altro, finora, ma guai se questo dovesse accadere, se cioè la politica con la P maiuscola e più in generale le classi dirigenti dovessero dimostrarsi incapaci di evitare che si generi una psicologia collettiva negativa che preconizza nuove povertà, che si terrorizza all'idea di un ritorno della miseria in un occidente abituato alla tranquillità e all'agiatezza. Vi chiederete, ma davvero corriamo questo pericolo? A guardare il comportamento dei mercati parrebbe proprio di sì, dice Cisnetto sul Messaggero. È vero, sono stati commessi molti errori, si è lasciato crescere a dismisura un sistema finanziario autoreferenziale, opaco e privo di controlli efficaci. Non si è evitato che alla bolla speculativa della New Economy, saggiamente sgonfiata tra il 99 e il 2000, dall'allora numero uno della Federal Reserve Alan Greenspan, si sostituisce quella immobiliare all'origine dei guai che da 14 mesi affliggono l'economia mondiale. Non si è stati capaci, una volta emersa la fragilità del modello di business basato sul debito, di intervenire drasticamente. Insomma, queste sono alcune delle riflessioni che vengono fatte, e dice le conseguenze di questo panico poi si ripercuotono oltre che sui mercati, come si sa l'economia è fatta soprattutto di aspettative, anche sui comportamenti delle persone, intese come consumatori che rinunciano a spendere anche quando possono, facendo così crollare la domanda come è accaduto negli USA e in Europa. Per questo bisogna che l'Europa capisca che non c'è tempo da perdere. Bene dunque Sarkozy, che stamane vede all'Eliseo i dirigenti dei principali gruppi bancari e assicurativi francesi. Bene che sempre oggi sia stato convocato in Italia il Comitato per la Stabilità Finanziaria, Tesoro, Banca Italia, Consob, ISVAP, e anche, se suonano rassicuranti, le parole di Berlusconi sul lasso tasso di finanziarizzazione del nostro capitalismo manifatturiero. Ma occorre fare di più. Questo scrive, dicevo, Enrico Cisnetto in una riflessione a tutto campo che forse porta la, i temi, diciamo, della crisi finanziaria in atto. Voi sapete la notizia, no al piano Bush, borse a picco, crollano Wall Street e Europa, Tremonti convoca il comitato di stabilità come abbiamo appena sentito. Questo dal Messaggero, una riflessione, vi dicevo, che tocca, come vedremo, anche ormai la politica, cioè non è solo relativa ai mercati finanziari. Ora, sulla stampa un premio Nobel, andiamo a vedere, Stiglitz, sì, Joseph Stiglitz, dà un'analisi anche, anche lui, come dire, concorre a fare una diagnosi di quello che è accaduto, degli errori fatti. Il crack porterà alla Casa Bianca il democratico. Ecco la conclusione a cui arriva Joseph Stiglitz nella sua analisi, intervista dal corrispondente a New York. Molinari, Maurizio Molinari, dice Stiglitz, la borsa andrà ancora più giù di molto, altre banche importanti falliranno e Barack Obama sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Sono queste le previsioni del premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz su cosa verrà a Wall Street e alla Casa Bianca, a seguito della bocciatura del piano di Henry Paulson. Perché il maxi fondo di salvataggio è stato bocciato? Ecco, questa è una delle risposte chiave che tutti si aspettano e la risposta è: Paulson ha sbagliato due volte. Da un punto di vista economico il piano dava più fondi a Wall Street che ai contribuenti, da un punto di vista politico aveva il timbro di un'amministrazione impopolare. I deputati alla vigilia delle elezioni per la riconferma non se la sono sentita di sostenerlo, lo hanno bocciato riflettendo l'umore degli americani a cui tra poco, più di un mese, chiederanno il voto. Ecco, quindi c'è già una prima risposta in questa analisi di Stiglitz, cioè il piano dava più fondi a Wall Street che ai contribuenti, e i contribuenti naturalmente hanno fatto pressione sul Congresso perché quindi non si votasse il piano. Parte dei repubblicani, come si vede. Sul quotidiano La Stampa abbiamo anche, voglio segnalarlo, è un tema diverso ovviamente, tanto diverso, molto lontano, riguarda però la giustizia, un tema vicino a noi, e c'è un'intervista di Nicolò Ghedini, che l'avvocato di Silvio Berlusconi, un'intervista che provocherà molte polemiche, perché dice a Francesco Grignetti: il nuovo CSM non sarà presieduto dal Colle, cioè dal Presidente della Repubblica. Sarà una rivoluzione, verrà nonostante tutto, il centrodestra ha la voglia e la forza di fare la riforma. L'avvocato Nicolò Ghedini non si nasconde della portata dirompente di quanto il centrodestra sta mettendo in cantiere sul fronte della giustizia. Non bastava il lodo Alfani, sono in arrivo. Separazione delle carriere, sdoppiamento del CSM, picconata all'obbligatorietà dell'azione penale tramite le priorità indicate dal governo e Parlamento, ridimensionamento delle intercettazioni, autonomia della polizia giudiziaria, forse anche eleggibilità dei giudici onorari. Ecco, questo di Nicolò Ghedini, una esplosiva per i contenuti che avete sentito, intervista che rilascia al quotidiano La Stampa. Prima era una crisi finanziaria, poi una crisi finanziaria assortita da tremori reali, ma ieri si è aggiunto il terzo braccio della croce, la crisi politica. Così Fabrizio Galimberti sulla prima pagina del Sole 24 Ore, l'economista editorialista del Sole, propone una diagnosi della crisi. Il re è nudo, scrive Fabrizio Galimberti, i panni scoperti disvelano l'inabilità di un sistema politico americano sotto elezioni a raggiungere un accordo per scongiurare il disfacimento del sistema finanziario. Piccoli cabotaggi elettorali hanno impedito al carro dei pompieri di raggiungere le terre riarse dei mercati, dove ogni scintilla può scatenare un incendio. Ma prima di raccontare c'è bisogno di capire perché era necessario un piano Paulson e perché questo pronto soccorso da 700 miliardi di dollari ad estato fiere ripulse ideologiche. Per capire bisogna partire dal pericolo che incombeva sui mercati finanziari. Niente di più semplice che prendere un caffè al bar, ma il barista chiede di essere pagato prima di offrire la tazzina fumante, mentre il cliente vuole il caffè prima di pagare. Tutte e due col braccio a mezz'aria si immobilizzano e la transazione non viene consumata. Scenario assurdo, certo, ma questa assurdità ci ricorda che il 99% delle transazioni economiche nel mondo avviene sulla base della fiducia. Se viene meno la fiducia, tutto si ferma. Questo è uno dei punti cardine della diagnosi di Fabrizio Galimberti. Galimberti poi analizza, dietro questa sfiducia vi era la questione dei titoli tossici presenti nell'attività di tanti istituti finanziari, una presenza che creando diffidenze e minusvalenze minacciava di bloccare l'attività di prestiti, inaridendo la linfa vitale del credito. Ecco, nella lunga riflessione di Galimberti sul Sole 24 Ore vi è alla fine, come dire, paradossalmente, come dice lui stesso, una nota di ottimismo. Paradossalmente, malgrado le angoscianti circostanze, è proprio la gravità potenziale della crisi, il crollo dei mercati finanziari, che rende inevitabili soluzioni delle quali il piano del Tesoro USA era ed è un tassello importante. Sono da sottolineare anche le norme sui limiti alla leva finanziaria, sui margini e sulla sospensione del mark to market, meccanismo che ha, come dire, influenzato tantissimo poi la perdita delle banche. È vero che si è andati rischiando la catastrofe, ma è anche vero che l'umanità, quando si è messa con le spalle al muro, diventa tutto sommato ragionevole e la potenza di fuoco delle autorità monetarie è praticamente illimitata. Ecco, questo sul Sole 24 Ore, Fabrizio Galimberti. Abbiamo naturalmente una serie innumerevole di servizi sul quotidiano diretto da Ferruccio De Bo. In Belgio pronti 7 miliardi, ma Sarkozy è in allarme, questo Dexia. Ancora su Fortis, voi sapete, il triplo aiuto governativo in Belgio non evita il crollo, meno 23,7%. Da Berlino invece Ipo Real Estate, Berlino salva il gruppo con un'iniezione da 35 miliardi. È questo il Sole 24 Ore che, ripeto, riporta una serie di servizi molto importanti. Ora tutti si chiedono, se lo chiederanno gli ascoltatori, se lo chiedono gli operatori, e in Italia che effetti avrà questa crisi? Allora vediamo, la Repubblica, no al piano USA, borse a picco, il congresso boccia Bush, la crisi travolge l'Europa, colpite altre banche. Però se andiamo a sfogliare, e quindi intanto abbiamo una serie di editoriali, commenti di Vittorio Zucconi, che scrive: c'è un buco nero nel cuore del disastro finanziario globale, una voragine sulla quale tutti ci affacciamo, scavata dal fallimento di una presidenza che non riesce neppure più a compattare il proprio partito per passare una legge disperata diretta a una situazione disperata. E Federico Rampini scrive ancora: colpiti affondati, Bush, il maxi piano, il salvataggio delle banche americane, Wall Street e tutte le borse del pianeta. Lo schiaffo brutale della Camera di Washington è avvenuto mentre nuovi fronti della crisi bancaria si aprivano in Europa, rivelando una fragilità estrema dell'Unione. E ancora sono stati tutti la mattina attaccati al telefono a pregare i deputati di non tradire la loro Casa Bianca. Questo è Mario Calabresi che scrive. George Bush, Dick Cheney, il ministro del tesoro Paulson e il capo del gabinetto John Bolton si erano divisi le chiamate in una disperata lotta contro il tempo, 25 a testa, per convincere i ribelli ad approvare il piano di salvataggio da 700 miliardi di dollari, ma probabilmente non c'è stato nulla da fare. Dicevo l'Italia, in Italia arrivano però come dire, giudizi rassicuranti da tutte le autorità più importanti. Certo, tutti i quotidiani riportano il caso Unicredit, paga l'internazionalizzazione, il titolo crolla sotto i 3 euro, come nel 98, ma Alessandro Profumo, numero uno di Unicredit, vuole rassicurare e scrive addirittura ai dipendenti: voci false, il gruppo è solido. E ancora Draghi, governatore della Banca d'Italia, rilascia una serie di dichiarazioni rassicuranti, e cresce la sfiducia sul nostro debito pubblico, ai massimi il divario bond BTP, ma Draghi dice la liquidità è adeguata, stiamo allerta. E ancora, in un retroscena che troviamo a pagina 7 del quotidiano La Repubblica, il tesoro, per fortuna siamo lontani dall'epicentro di questa crisi. Comuni debitori di Dexia, Lehman interviene, cassa depositi, siamo tutti in rete. Chi è passato ai piani alti del Ministero del Tesoro ieri sentiva risuonare questa parola d'ordine, metafora della massima allerta, contatti continui con le capitali europee, culminati in ripetute conference call chieste espressamente dal presidente francese Sarkozy, verifica durante il weekend delle condizioni della tesoreria delle banche. L'effetto della crisi internazionale si aggrava, investe l'Europa, ma il Ministero dell'Economia invia messaggi rassicuranti e cerca di sdrammatizzare. L'Italia non è la causa né l'anello più debole della catena. Effettivamente questo elemento emerge da una serie di analisi che già nelle settimane scorse abbiamo letto sui giornali, per cui il sistema bancario italiano, il sistema finanziario italiano non è nell'epicentro, e forse le sue strutture, i suoi modi operandi gli hanno consentito, qualcuno dice paradossalmente, di stare fuori dal centro della crisi. E il quotidiano La Repubblica riporta anche le notizie della politica, che poi rivedremo a proposito di Berlusconi contro Nicoletta Gandus, il giudice Nicoletta Gandus è un mio nemico politico. Cascini dell'Associazione Nazionale Magistrati dice è un imputato che parla del suo processo. In cuor suo doveva sentirsi il cavaliere che la faccenda del lodo Alfano gli sarebbe andata male, tant'è che non ieri, ma quando Bruno Vespa, l'anchorman di Porta a Porta, mandava in stampa il suo libro, gli confessò che quella legge era necessaria in un sistema in cui operano magistrati che, invece di limitarsi ad applicarla, si attribuiscono un preteso compito etico. E già una staffilata contro Nicoletta Gandus, la toga che presiede il collegio del processo Mills, tacciata di essere una comunista. Lo stronca il segretario dell'ANM Giuseppe Cascini. Questo sul quotidiano La Repubblica, e con un Berlusconi che appunto attacca Nicoletta Gandus. In più il caso Garlasco. Stasi è l'assassino. Chiusa l'inchiesta sulla morte di Chiara, il PM chiederà il processo per il fidanzato. Il conto alla rovescia è finito. Entro sabato, ma forse già domani, la procura di Vigevano notificherà ad Alberto Stasi l'avviso di conclusione delle indagini sul giallo di Garlasco. A più di un anno dal delitto di Via Pascoli, era la mattina del 13 agosto 2007, l'accusa è pronta a consegnare il conto finale all'unico indagato per l'omicidio, cioè Alberto, il fidanzato della vittima. Il passo successivo alla notifica della chiusura dell'inchiesta da parte del PM Rosa Muscio sarà la richiesta di rinvio a giudizio per Stasi. Ecco, questo il, tra altre cose, su Repubblica c'è anche un Tom Wolfe, un autore che il Falò delle Vanità scrive qui tra le idee a Wall Street, l'ultimo falò delle vanità, quindi anche un cote, diciamo così, letterario alla vicenda della crisi in corso. Il Corriere della Sera, beh no, intanto volevo dirvi che anche il Foglio propone un'analisi politica di quello che sta avvenendo. America nel pallone, schiaffa l'establishment, e Ferrara firma col suo elefantino una diagnosi, dice, scrive Ferrara, 228 no, 205 sì, un voto storico sul più grande salvataggio finanziario della storia americana, Wall Street al collasso, un clima da brivido. Hanno detto di no a un piano garantito dalla Casa Bianca, dal Tesoro, dalla Federal Reserve, dalle leadership congressuali di democratici e repubblicani, e con qualche malizia e prudenza anche dai candidati McCain e Obama. Rivoteranno su un nuovo testo perché le pressioni in nome della salvezza nazionale sono fortissime. Ma per adesso i deputati della House di Washington, che si battono per la rielezione a novembre e hanno sul collo il fiato furente dei loro elettori, hanno giudicato ingiusto e un American il grande bailout che salva la finanza americana e mondiale. Scrive ancora Ferrara, presumiamo perché c'è la sua firma con l'elefantino, ma con questo calcio all'establishment, questa rivolta sia democratica sia repubblicana contro l'idea di pagare i debiti del sistema bancario con i soldi dei taxpayers, che sono un idolo di giustizia riverito e amato dall'assoluta maggioranza degli americani, una certa identità americana pro mercato e all'occorrenza fieramente populista, può riaffermare i suoi diritti e spingere il vento delle vele un po' afflosciate del vecchio McCain e del suo sorridente e un tanto surreale emblema di guerra o guerriglia culturale di nome Sarah Palin. Ecco, questo il Foglio, mentre il Corriere della Sera, che pure si occupa ovviamente dei mercati e della crisi incredibile che si sta abbattendo sui mercati finanziari, però affida a Pierluigi Battista l'editoriale di prima pagina del tutto diverso, la vecchia narrazione, una critica al veltronismo e al suo attacco recente a Berlusconi per averlo paragonato a Putin. Crede davvero il leader del PD, scrive Pierluigi Battista, che lo stesso avversario con cui solo pochi mesi fa si chiedeva un patto per le riforme istituzionali più urgenti, che lo stesso Berlusconi con cui proprio in questi giorni D'Alema ha avviato una discussione sul modello presidenzialista, che dunque proprio l'interlocutore di ieri si sia trasformato nell'odierno rischio democratico? L'ipotesi più verosimile è che Veltroni, dopo aver imboccato con successo, anche se accolto con le reazioni sgarbate del capo del governo, la via del confronto nelle ultime fasi della vicenda d'Italia, abbia in mente la scadenza del 25 ottobre, in cui il popolo democratico manifesterà in piazza contro il governo Berlusconi. Conoscendo il suo popolo e le sue pulsioni, il leader del PD, sa quanto la narrazione della democrazia in pericolo, costruita in un quindicennio dominato dal vecchio schema, abbia ancora un'influenza pervasiva nella mentalità e nell'emotività diffusa nella sinistra, un residuo del passato. Insomma, qui ci sta dicendo... ci sta dicendo Pierluigi Battista che l'attacco di Veltroni a Berlusconi è stato fatto tutto in funzione della manifestazione del 25 ottobre di tutta l'opposizione. Nuova Skoda Superb vi presenta Che strada fa? Situazione difficile sulla tangenziale ovest di Milano in seguito ad un incidente, si viaggia in coda dall'Autosole alle Vigevanesi in direzione Laghi, però ci sono forti ripercussioni su tutte le percorrenze nei pressi della tangenziale ovest, si viaggia sul luogo dell'incidente su una sola corsia, sono coinvolti due mezzi pesanti ed un furgone, ci sono, dicevamo, ripercussioni fino sull'Autosole, si incontrano le prime code a partire già da Melegnano per chi viaggia in direzione nord, coda anche per chi arriva dalla 7 cerca di mettersi sulla tangenziale ovest e coda sulla stessa tangenziale anche sulla carreggiata opposta in direzione Bologna, di fatto su alcuni tratti la circolazione è bloccata, coda anche sul tratto urbano della 4 sempre nei pressi di Milano per un veicolo in avaria 3 km fra Monza e Cormano in direzione Torino, sull'autosole 2 km di coda all'altezza di Piacenza in direzione Milano per lavori anche nella zona di Verona, qui siamo sulla 4, rallentamenti verso Padova. Traffico poi intenso attorno Bologna, Roma e Firenze sulla tangenziale di Mestre, su quella di Napoli. Ricordiamo ancora una volta i lavori che interesseranno la 3 Salerno-Reggio Calabria. Dalle 15 alle 17 verranno chiuse le carreggiate tra Buonabitacolo e Lago Negro. Che strada fatta? Un'altra mezz'ora. È la stampa bellezza, la stampa. Compagni pistola, satira da cimitero. Nell'inserto comico dell'Unità una macabra vignetta contro il ministro Brunetta. Un giovane gli punta l'arma e promette di ammazzarlo. E c'è poco da ridere, questo scrive il quotidiano Libero in prima pagina. Il quotidiano Libero sceglie di non aprire sulla crisi finanziaria che mette, diciamo, in basso. Borse ancora a picco, Milano perde il 4-7% e invece apre su questo. E Fausto Cariotti a questo è stato affidato il commento principale. A pagina 5 dell'ultimo numero del sedicente inserto satirico dell'Unità c'è una vignetta che non fa ridere, niente di strano di questi tempi, però si nota subito lo stesso perché questa vignetta fa schifo, molto schifo, scrive Fausto Cariotti. Ve lo scrive uno che quando si tratta di satira non ha lo stomaco debole, avendo iniziato a frequentarla in tenera età, spendendo più di una paghetta per comprare quel concentrato di cattiverie che non a caso si chiamava il male. Uno che guarda la trasmissione di Michele Santoro solo per ghignare su certe vignette perfide di Vauro e ha la raccolta rilegata delle prime annate di Cuore, l'ultimo inserto satirico dell'Unità degno dell'aggettivo che portava. La vignetta che fa schifo raffigura un ragazzo che impugna la pistola con aria strafottente. Ricorda il finlandese che pochi giorni fa ha compiuto una strage a scuola, punta l'arma verso qualcuno. E insomma, qui la morale della vignetta è trasparente, non occorre essere laureati in semiotica con Umberto Eco per cogliere ciò che è evidente, il 68 ce l'ha insegnato, uccidere Brunetta non è reato. Ecco questo il Fausto Cariotti su il quotidiano Libero. Tra le altre cose, intervista anche uno dei più noti vignettisti italiani, appunto citato da Cariotti, che è Vauro Senesi, vignettista del Manifesto e sempre presente collaboratore della trasmissione di Santoro, il quale boccia: le armi non fanno ridere, ma non si monti un caso politico. Nessuna pietà per il compagno che sbaglia, dice Vauro. Quella vignetta è piuttosto bruttina. Parola di Vauro, storico matita di sinistra, oltre che vignettista del Manifesto e di Anno Zero. La trasmissione, insomma, questo Vauro, tra le altre cose, voglio segnalarvi che proprio sul Manifesto Vauro fa la vignetta della vignetta, cioè fa la satira della satira, perché fa proprio una vignetta su questa cosa e scrive: l'Unità, vignetta con pistola puntata su Brunetta, ma non è puntata contro Brunetta, come fai a dirlo? È puntata ad altezza d'uomo, e questa è la ironia, un po' che, come dire, leva un po' di tensione alla vicenda, ma la vicenda comunque della tensione c'era lo stesso, perché a parte Libero, che appunto punta la prima pagina su questo, il giornale intervista proprio il direttore dell'unità, Concita De Gregorio, che prende le distanze. Ho chiamato subito il ministro, è una vignetta di pessimo gusto. Da quella vignetta mi dissocio, senza se e senza ma. È netta e chiarissima Concita De Gregorio. La direttrice dell'unità non cerca scappatoie, si prende tutte le responsabilità per l'incidente. Toccava a me controllare, causato dall'inserto satirico M, diretto da Sergio Staino, che esce allegato al suo giornale, dunque sotto la responsabilità del direttore, anche se viene elaborato e realizzato in una redazione autonoma. Appena la polemica esplosa, De Gregorio ha alzato il telefono e si è personalmente scusato con il ministro Renato Brunetta. E lui come l'ha presa la direttrice? Benissimo, figurarsi, con Brunetta ho un ottimo rapporto e una persona intelligente. Mi ha detto che non aveva dubbi sulle nostre intenzioni e ha capito immediatamente. Capito cosa? Gli ho spiegato la verità, semplicemente. Il mio compito è controllare tutto quello che esce, ma in quel caso, e pur lavorando 15 ore al giorno, mi è sfuggito. Non ho visto tutte le vignette di M. È un chiaro caso di omessa vigilanza. La verità è questa, scrive francamente il direttore dell'unità Concita De Gregorio, anzi la direttrice dell'unità. Comprensibilissimo che una vignetta su 15 di pagine di supplemento sfugga, e se l'avesse vista l'avrei fermata subito. Quella vignetta è un gesto, è di un gusto terribile, nel quale non mi riconosco da nessun punto di vista. Io sono una persona mite e la cultura della violenza non mi appartiene da nessun punto di vista. Non sono aggressiva nella mia vita personale, ma neppure nelle relazioni professionali o politiche, e chi mi conosce lo sa bene. Ma tutto questo potrebbe essere una valutazione soggettiva, la satira non è certo obbligata al buon gusto o al bon ton. Il problema delicato è che la sacrosanta libertà di satira deve finire dove comincia il diritto alla dignità e alla incolumità personale. Se la satira arriva a ledere questi diritti inviolabili, bisogna fermarsi. E insomma, dice, questa vignetta evidentemente superava questo limite. E il quotidiano, il giornale, però, cambiando argomento, mi pare che abbia, sia l'unico a riportare, no, forse no, c'è anche il Foglio adesso che mi viene in mente, a riportare comunque una ampia intervista a Haider, esponente della destra estrema austriaca, Jörg Haider, 58 anni, leader della formazione di centrodestra Alleanza per il Futuro. Ecco, chi fosse interessato, Stefano Zurlo lo intervista. Tutti dicevano che lei era un cadavere politico, il mio partito ha triplicato i suoi consensi, la destra nel suo complesso è intorno al 30%, un risultato storico. Dice, ma cosa bisogna fare a questo punto? Quale prospettiva vede? La prima è un governo in cui entrino i popolari, noi e la destra radicale di Strache. In alternativa un'altra coalizione con i socialisti, i Verdi e sottoscritto. Non ha problemi a formare un governo con la sinistra? No, veramente il problema è loro. E Haider, in auto tra Vienna e Klagenfurt, consegna al telefono un'altra risata. Prima delle elezioni i socialisti hanno spiegato che mai e poi mai avrebbero governato con noi. Oggi credo che debbano cambiare idea. Noi siamo pronti. Questo dice Haider, che si distingue in questa intervista dall'altro esponente, dal rivale Strache. E questo quindi sul quotidiano Il Giornale. Volevo segnalarvi un'altra cosa, l'editoriale di Mario Giordano, che prende le parole di Napolitano sulla ora la scuola va rinnovata, tagli necessari, e ne fa una, come dire anche il Presidente della Repubblica appoggia la riforma Gelmini, tanto che inizia così Giordano: la riforma della scuola si deve fare, i tagli sono necessari. Sapete chi parla così? La Gelmini, Tremonti, Berlusconi, ma che il Presidente della Repubblica Napolitano. Questo sul quotidiano Il Giornale. Infine il riformista intervista sulla vicenda Haider e Bossi, la crisi spinge la nuova destra, e Anna Mazzone, le elezioni austriache hanno premiato i due partiti di estrema destra, ma i socialdemocratici erano scesi sotto il 30%, e così i conservatori, un'anomalia viennese o un fenomeno continentale? Abbiamo intervistato, scrive il riformista, Yves Meny, presidente dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze e attento osservatore della democrazia della destra europea, autore di Populismo e Democrazia. La sorprende l'esito del voto in Austria? No, perché i due principali partiti che hanno governato il paese negli ultimi 50 anni, insieme o separatamente, sono stanchi, esauriti, sia nella loro capacità propositiva, sia nell'uscire dalle pratiche clientelari. Clientelismo in Austria, pensavamo fosse una caratteristica spiccatamente italiana. Affatto. L'Austria è il paese d'Europa in cui il clientelismo è più diffuso. La stabilità di due partiti al governo ha fatto sì che dai portieri ai professori universitari tutti siano dovuti rientrare nei parametri di dinamiche clientelari di cui la politica è stata onnipervasiva. Ecco, questo scrive il Riformista, e poi c'è un si salvi chi può di apertura e un pure Spike Lee se la prende con i partigiani. Il mancato miracolo di Sant'Anna, il film dove emerge questa nuova polemica. E con questa segnalazione io chiudo la rassegna stampa. Vi ricordo sempre che potete telefonare per il microfono aperto al numero verde 800 24 00 24 per intervenire direttamente nella discussione. A dopo.